ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Stasera gioco a calcetto, gioco una rete. Faccio 10-12 gol e poi me ne vado a casa. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzi, tutto a posto. Ce la giochiamo a pallone. Italia-Marocco. Si arriva ai 10. Ma sei scemo? Che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto. La stretta sulla Movida in arrivo con le nuove misure messe a punto dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Stop agli sport di contatto fra amici come le partite di calcetto basket. Negli stadi ingresso consentito a non più di 1000 persone. Il vero problema è che si parla sempre del calcio professionistico, bisogna pensare anche a quelle società dilettantistiche che come faranno a campare, magari che basano tutta la propria attività sull'affitto dei campetti, aboliranno le partite di calcetto a quanto pare, oppure sui campionati dei bambini, dei ragazzini con le quote di partecipazione che dovranno rimborsare. Ma s'appoggi pure volentieri. Mi dispiace molto perché a calcetto stavo vivendo un grande momento, ero in forma, però magari ci vorrà un po' di tempo. Che cos'è l'amore? Grande copertina, bravissimi ragazzi, Gianmarco Ferronato, Claudia Schiattone. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prima del Pardo tweet ti devo chiedere una cosa, come te la cavi a Subbuteo? Ma benino, benino, sono più forte alla PlayStation. E a PlayStation però, io zero. Però anche su Budeo io ancora ricordo una clamorosa rimonta in casa del più bravo della classe, mio amico Alessandro Ferrante, da 0-2 a 3-2 nel torneo. Insomma, se ne parla ancora. Se ne parla ancora. No, perché dobbiamo trovare un passatempo, amico mio. Anche perché passatempi più impegnativi non sono consentiti. Radio Tweet? Ma Radio Twitter per Francesco Totti, insomma, gli ho mandato anche un messaggio in privato, gliel'hanno fatto in tanti. Uh-huh. E semplicemente per dire quello che se vuoi è banale, cioè che anche i grandi sportivi, i grandi della storia, in questo caso del calcio, poi possono ritrovarsi improvvisamente fragili e che poi probabilmente dietro all'equilibrio, all'allegria che questo ragazzo ha avuto nella sua carriera da calciatore e che secondo me lo ha condizionato in positivo, nel senso che comunque gli ha dato forse una leggerezza che lo ha reso il campione meraviglioso che è stato, c'è sempre un insieme di fattori e c'è sicuramente la famiglia, quindi in questo momento insomma l'abbraccio va a lui, è una storia ovviamente, è la vita, certo. Tra l'altro la vita in questo periodo con tutte le angosce del coronavirus, ma insomma mi sembra giusto e doveroso partire da lì. E ci uniamo tutti quanti a questo tuo radio tweet in code, tutti insieme. Claudio Nofri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. No, sai perché l'ho chiamato? Sì. Tu lo sai, Pier, perché l'ho chiamato, no? Tra le altre cose, oltre al piacere io di parlare con lui. Dillo tu, io lo so, ma dillo tu. No, perché lo sai benissimo, anche perché c'entra con un tuo amico, perché non so se è ancora operativo o era ancora operativo fino a ieri uno dei calcetti più belli d'Italia, se non ricordo male, a Genova il lunedì sera, giusto? Il venerdì sera. Vedi che sbaglio. Protagonisti? Normali normalmente? Vabbè, Antonio Cassano, che però si è dovuto ritirare perché adesso un paio di mesi, visto che la sua squadra era nettamente inferiore a quella che guidavo io da capitano e quindi insomma non era all'altezza in quel momento. No, parte gli scherzi, ovviamente insomma adesso è un pochettino dilatata, diciamo così, la sua presenza, però era un piacere veramente vederlo giocare, perché io ogni tanto mi fermavo, giocavo proprio contro, ero il capitano della squadra avversaria, però ogni tanto mi fermavo invece di giocare a guardare quello che faceva, perché al di là del coefficiente di difficoltà che aveva a giocare con gente un po' anzianotta, però onestamente è un fenomeno riconosciuto credo da tutti, che forse ve l'avevo già detto, io ogni volta che lo incontro lui dice vabbè dai dimmela questa, nel senso che dico, c'hai una testa che non riesco a capire come tu non abbia potuto giocare, che ne so, 10 anni nel Real Madrid, ecco, per dire, no? Nel senso che, e quindi è anche un po' colpa tua, e glielo dicevo sorridendo ovviamente. Sai perché, Claudio? Sai perché? Sì. Sei che frequenta brutte compagnie, tipo Pardo. Ah beh sì, no, questo è un buon motivo. Ho tante colpe, ma lì sono innocente. No, perché poi tra l'altro, no, volevo proprio per finire il discorso, perché tutti si fanno un'idea, no, del comportamento di Antonio, no, diciamo così, come a dire vabbè questo è così, cioè, ma se tu parli con Antonio, e Pierluigi lo potrà confermare, no, è un ragazzo intelligente, e questo è ancora un aggravante secondo me per quello che è stata la sua carriera, no, che poteva avere veramente essere ancora più illuminata rispetto a quella che insomma ci ha fatto vedere, per cui insomma adesso speriamo di ricontattarlo e rivederci presto, insomma. Presto, magari tra un po', dato che sì, è vero, dato, sì. Che, dato che, caro Claudio, bisogna trovare altri passatempi per tenersi in forma. Ma tu in Porto non hai mai giocato con loro, no, Pier? No, ho giocato una volta la partita del cuore a Genova, dove c'era Antonio che giocava, forse c'era anche Claudio. Ma no, sì, comunque secondo me sulla... Vabbè, su Antonio l'intelligenza è viva, in certi momenti è stata troppo viva, secondo me, nel senso, no, ma veramente, nel senso che lui è appunto, ha ragione Claudio, poi io sono amico, ma quindi può sembrare così di parte, ma in realtà Antonio ha veramente un'intelligenza pratica molto molto spiccata, cioè è tutto meno che un tonto, tanto per essere chiari, e certe volte nella vita bisogna anche, no, essere un pochino più maleabili, ma è vecchio discorso che abbiamo fatto. Io però non sarebbe così letterario, dai. No, ma esatto, poi comunque insomma quello che mi risulta è comunque un uomo felice e realizzato, anche se ha vinto sicuramente meno, e forse in certi momenti quando è lì nel suo candido lettino gli forse glielo dà ancora, no, per aver vinto poco in relazione a quello che poteva fare. Però ma magari gli erode perché perde sempre a calcetto con Onofri, gli eroderà anche, gli eroderà anche per quello. Quando vieni ti do una ripassata a padel. Ma padel si può? Ancora siamo salvi col padel, no? Ma non lo so, non facciamo delle ricerche, mi sembra di sì. Siamo a distanza, dai, siamo veramente a distanza. No, sul calcetto, ragazzi, che vi devo dire? È chiaro che siamo in una situazione di emergenza. La speranza che avevamo, e che forse abbiamo ancora, ma è abbastanza irrazionale, di riuscire a risolvere questa situazione prima della fine dell'anno, io temo invece che alla luce di quello che è successo negli ultimi giorni che si arriverà alla primavera, cioè che passeremo un altro inverno complicato con delle precauzioni, speriamo non drammatico come lo scorso anno, e poi insomma la speranza è che all'inizio del prossimo anno, all'inizio della bella stagione, marzo, aprile dell'anno prossimo, con questo benedetto vaccino e con i caldi che hanno aiutato, anche quest'estate hanno sicuramente aiutato, ci possiamo lasciare alle spalle questa bruttissima avventura. Il calcetto è parte della identità sportiva e dell'appartenenza e dell'amicizia di milioni di ragazzi e ragazze, perché anche le ragazze giocano a pallone, certo, del nostro paese, però insomma che dobbiamo fare? O a basket, come tu ben sai, insomma. Basket, il playground. Senti Claudio, come lo vedi per l'appunto il futuro prossimo del calcio? Dribbling tra i problemi, ma come vedi i prossimi mesi? È estremamente difficile. Io ero uno di quelli che ovviamente, proprio da amante del calcio, oltre che da ex professionista, mi auguravo appunto che si potesse ricominciare al più presto possibile. C'è stato questo rientro, ma che onestamente in questo momento non rappresenta, diciamo, i canoni, i connotati principali che uno sport professionistico e soprattutto però di passione può svolgere attraverso appunto tante cose. I connotati quali sono? Sono l'imprevedibilità, per esempio, del risultato, la passione, l'aggregazione, la sportività e tante altre cose che in questo momento non mi sembrano che siano appunto riconosciute dalla possibilità di svolgere un qualcosa di importante in questo senso. E quindi è chiaro che adesso bisogna cercare di trovare qualsiasi tipo di soluzione la migliore possibile, anche se ovviamente non è facile. Però sinceramente adesso io parlo da Genova, no, per dire, ma non da ex genovano. Tra l'altro in Liguria è la stagione dei tre derby, la storia. Ma domenica, per esempio, il Genoa dovrà andare a giocare con il Verona con 6, 7, 8 primavera, giocatori che voglio dire, perché sono stati contagiati un'enormità di individui e di conseguenza non c'è più quell'equilibrio, diciamo così, che ci poteva essere. Sono cose che vanno valutate onestamente, perché è vero che appunto io dicevo che bisognava ricominciare in quanto non solamente per l'aspetto emotivo ma anche proprio aziendale, diciamo così. Sì. Stiamo parlando di un'industria che è una delle prime 3, 4, 5 in Italia, però in questo momento, diciamo, ti ripeto, non ci sono le situazioni ideali per poter poi far rinnamorare di nuovo la tifoseria. Siamo a livelli di resistenza. Tra l'altro, a ricordare ulteriormente anche l'importanza per il futuro dal punto di vista economico del calcio, ce ne fosse bisogno di ricordarlo, oggi si assegnano i diritti televisivi per il triennio della Champions League e ballano un sacco di soldi anche da quel punto di vista lì. L'idea comunque è che all'interno della cornice normativa che ci si è data, è vero, Genoa andrà con tutti i primavera che servono, però in questo momento forse è necessario anche resistere in quel modo lì, no Pierluigi? Sì, sì, è necessario resistere sicuramente finché sarà possibile. Il problema è, o meglio, il punto è capire qual è il modo migliore per resistere. Si è chiusa, credo, su Repubblica di oggi. Ho letto i giornali stamattina, sapevo presto, quindi miracolosamente ho letto i giornali molto molto presto, credo fosse Repubblica. C'era un articolo dove giustamente si sottolineava la perfetta tenuta della bolla dell'NBA a Orlando, senza un contagiato, senza un positivo, con alla fine 3 mesi di playoff. Però appunto quella è una bolla. Il problema vero che abbiamo noi è che una vita normale, anche con le precauzioni, anche con i tamponi che vengono fatti continuamente, però è molto difficile da condurre per gente che prende aerei. Adesso per esempio pensa a Diawara, no, lo cito perché è un esempio di un giocatore contagiato in nazionale. Sì. Quindi anche il fatto che tu vai a mescolare i club con le nazionali fa sì che automaticamente si vada a mescolare gruppi squadra di club con gruppi squadra di nazionali. Certo, e questo inevitabilmente può portare a qualche caso di positività che però poi si può diffondere a macchia d'olio su altri casi. Quindi insomma, un po' le cose che diciamo ieri. No, ma è chiaro, si deve vivere la giornata. Il caso del Genoa è chiaramente un caso limite. Un caso limite perché è una squadra che in questo momento oggettivamente è talmente fiaccata dal punto di vista tecnico e soprattutto poi c'è un tema anche di recupero, perché quello. No, cioè, non è che qui stiamo parlando di atleti che sono quindi perfetti per loro stessa, che se calano anche banalmente dal punto di vista del tono muscolare per 20 giorni, poi credo quanto ci si rimette a tornare in condizione, Claudio? Beh, insomma, voglio dire che è chiaro che ci vuole, sai, quando si finisce il campionato, no, ci sono, che ne so, c'è un mesetto, no, di vacanze, quindi fai la preparazione per riprendere. Adesso più o meno i giorni sono quelli, per quelli contagiati, eccetera, e quindi di conseguenza tu devi fare una preparazione, ma all'interno, diciamo, di un contesto invece ufficiale, che è quello del campionato. È per questo che dico che mancano veramente i presupposti. Io ripeto, mi auguro che si trovino in qualsiasi maniera le situazioni giuste per poter continuare e ricominciare, però mi sembra veramente molto molto difficile, ecco, in questo senso, perché viene messa in discussione proprio la regolarità del campionato stesso, ma ripeto, non parlo esclusivamente del Genoa, perché contagiati si stanno tu pensi comunque il derby di Milano, che tutti moriamo dalla voglia di vedere, insomma, sarà un derby condizionato, però da questo punto di vista credo, Claudio, che l'unica via sia quella di rassegnarsi a questa situazione e comunque di, nel rispetto delle norme, di portare a termine la questione. Grazie Claudio, a presto. Grazie a voi, ciao Pierluigi. Ciao. Mentre senti, per onestà, il mio amico Alessandro, quello che ha perso subito 3-2 in rimonta con 3 gol in 4 minuti, dice: però non ricordi il fatto che vinceva quasi sempre lui? È vero, vinceva quasi sempre lui, ma questo rese quell'impresa ancora più incredibile, capisci? Da 0-2 a 3-2, da 3-2 nel giro di pochi minuti. Maremontata pazzesca. Quindi quando vuoi giochiamo a subbuteo, però non devi fare la schicchera, come si dice a Roma. Sai che la schicchera è proibita, no? Sì, proibita. La schicchera, proibita. Si gioca in punta di dito. Senti, ma quando abitavi con Alciato e Nosotti, giocavate a subbuteo? Io in realtà abitavo con Alciato, poi Nosotti ogni tanto si palesava in qualche serata, magari dove non tornava a dormire a Formigine perché rimaneva a lavorare a Sky, allora veniva a dormire da noi e dormiva su questo materasso matrimoniale che tenevamo spesso anche in cucina, devo dire, ma la cucina era molto ampia, la casa aveva una sua bellezza, poi il centro storico di Milano, conferma Noso? Confermo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Marco. Tra l'altro, qual è il ruolo più difficile e più difficile da coprire, perché non trovi mai nessuno, e più determinante del calcetto? Qual è? Il portiere. Non ci vuole giocare nessuno. Poi sta lì, non si muove. Passatela anche a me, facciamo la superiorità, l'ampiezza. Sì, sono quelle robe che si dicono, ma non si pensano. E noi, noi ce l'abbiamo, ci sarebbe da vergognarsi. No, noi ce l'abbiamo portiere, Nosotti tutta la vita. Tra l'altro, ieri abbiamo parlato con io e Pierluigi con Carnevali, no? Boss del Sassuolo. Ah, per una nazionale che è molto sassuolese, e tu sei un ex. Un ex, sì, vergognosamente sì, sono un ex. Lo dico per loro. Però c'è questo negli annali. Una volta c'erano Sotti. No, lasciamo perdere, dai. Senti, parliamo di cose serie, quelle robe lì non va bene. Come no? Serissimo. Questa nazionale sassuolese che stai raccontando per Sky. Allora, domani ci ritroviamo già alle prese. È un bel argomento. Parliamo di un sacco di cose infinitamente più difficili. Però ci ritroviamo alle prese col tormentone immobile? Sì, perché siamo anche noi che lo creiamo. Mancini, su queste cose mi sembra più leggero, più sereno. Voi due, Immobile e Belotti, siete i miei centravanti, forse non proprio quelli che vorrei, ma questi i migliori che in questo momento mi dà il campionato. Siete bravi ragazzi, siete date disponibilità, anche se nel vostro club giocate in una maniera e con me giocate in un'altra maniera, dice Mancini. Ecco, è per questo forse che non sono così prolifici, forse è per questo che lui tiene gerarchie ben distinte, ben definite, fino all'europeo, almeno fino ad oggi era così, non deciderà. Ora c'è un terzo incomodo, che può essere appunto quel Caputo, visto che parlavate di Sassuolo, che nei movimenti, con e senza palla, nella lettura di determinate situazioni, può piacere perché è un modo completamente diverso di giocare degli altri due. Noi la nostra nazionale gioca alto, recupera palla alta, può star di là, può comandare il gioco, e però in area bisogna starci. No, per quel gioco lì, per quel gioco lì a me sembra più fit Immobile rispetto a Belotti, ma sì. Sono gusti personali, cioè sono opinioni personali. Chiaro che io penso che forse sarebbe il caso di investire uno di questi, non manca moltissimo agli europei, le partite non sono tante quelle da giocare, investire qualcuno del ruolo di centravanti, anche perché non è un ruolo banale come quello del portiere, cioè devi essere devi essere calato dentro la squadra in modo molto preciso, secondo me. Pierluigi, che dici? Sì, io dico che dal punto di vista realizzativo non c'è partita, cioè se noi guardiamo quello che ha fatto Immobile in questi anni con la Lazio, credo sia arrivato a 126 gol, vado a memoria, in 4 anni e qualcosa con la Lazio, e sono numeri incredibili, sono numeri pazzeschi. Se l'anno ne ha fatti pochi, ne ha fatti 19. Quindi questo è Immobile di questi anni. Questi numeri non darebbero spazio per nessun tipo di dialettica, nessun tipo di ballottaggio, nessun tipo di dibattito. Che cosa manca allora? C'è un aspetto tattico, secondo me, che è quello che Mancini poi, insomma, onestamente riconosce, no? Cioè, nella Lazio c'è un tipo di sviluppo di manovra finalizzata a farlo rendere al massimo, nella Nazionale c'è un modulo di tipo diverso. E poi secondo me c'è il tema della credibilità internazionale, della personalità di Immobile nelle grandi partite. Secondo me c'è, ma come dicevo l'altro giorno, maggior ragione, non converrebbe in prospettive europee dargliene in maniera continuativa? Sì, lo so, però è anche vero che Mancini sta anche lavorando, non ha tante occasioni, ha pochissimi slot, poi con lockdown ne ha perse ulteriormente di opportunità per poter fare esperimenti sulla sua squadra. Io penso che Immobile sia il titolare di questa nazionale in linea di massima, e penso che quest'anno, come dicevo l'altro giorno, Immobile avrà la possibilità attraverso la Champions League di trovare dei palcoscenici anche diversi. Le grandi partite sono un'altra cosa, insomma, lui questi anni lui non gioca la Champions League dai tempi di Siviglia, quindi stiamo parlando di un giocatore che quest'anno secondo me avrà la possibilità di dimostrare che quel tipo di contributo lo può dare anche nelle grandissime partite. Io sono convinto, anch'io, e che questa cosa gli consentirà di assumere ancora più personalità, di prendersi ancora più autostima e di convincere sempre di più Mancini. D'altra parte, l'altro giorno parlavamo, Marco, del confronto, no? Che poi non c'è stato con Lewandowski. I numeri si guardano, si leggono, ma i gol si pesano anche. Quelli di Lewandowski, onestamente, hanno avuto un peso specifico nella sua storia personale, sì, enorme. 55 stiamo parlando di numeri che assomigliano a quelli di Cristiano Ronaldo e Messi, sai. Preparando le partite, scusa Noto, ti do subito la parola. Preparando le partite spesso si trova a segnare gol e presenze nei vari anni, e essenzialmente i giocatori che superano quella cosa fatidica del gol a partita sono stati in questi anni solo Cristiano Ronaldo e Messi. Ecco, Lewandowski l'anno scorso ci è riuscito, questo per dirti l'eccezionalità, mi pare 55 gol in 47 partite, anche qui vado a memoria, non che Immobile ne abbia fatti pochi, assolutamente, però insomma Lewandowski è stato assegnato sempre in Champions League tranne che nell'ultima giornata, cioè nella finale, quindi stiamo parlando di una roba veramente fuori dal comune. No, non fatemi dire che questa nazionale con Lewandowski centravanti sarebbe davvero una cosa grande, più grande forse di quello che è già. Senti, un'ultima cosa, Marco, certo. A proposito della partita di domani con l'Olanda, Bergamo, luogo non banale, partita non banale, tra l'altro molto importante per la classifica. C'è un altro giocatore del Sassuolo che prima o poi avrà in mano le chiavi di questa nazionale, si chiama Locatelli. Quando? È vero perché allora in questa struttura di gioco che in pratica è stata inaugurata 2 anni fa col doppio play lì, lui può essere un validissimo Verratti, anche se cioè alternativa Verratti o alternativa Barella, mezzala più che uomo davanti alla difesa da Giorginio, non a caso Giorginio è insieme a Bonucci più impiegato, perché dà degli equilibri differenti. Lui è cresciuto proprio la corte del Sassuolo, lui ha avuto la sfortuna di fare 2 grandissimi gol, uno al Sassuolo e uno alla Juventus appena esordito, ai invece questo è diventato bravo a Sassuolo anche quando la palla l'hanno gli altri, che non una cosa da poco. Poi effettivamente la ricerca del terzo uomo, la costruzione da dietro, è cresciuto nelle conoscenze con De Zerbi, secondo me è adatto anche come principi di gioco all'idea che è il Mancio, e secondo me è un valore importante nel nostro centrocampo. Lui è pronto per fare il grande salto, anche non ce ne voglia il Sassuolo, anche nei club. Sì. E poi giustamente dicevate, bisogna risolvere il problema del gol, perché riempiamo l'area, accompagniamo bene, abbiamo tanti palloni, ma bisogna buttarli dentro, e con le squadre importanti finora siamo 5 gol fatti e 6 subiti, con le squadre tipo Francia, che è il punto di riferimento a cui vuole arrivare Mancini, e quindi Portogallo, Polonia, il margine di miglioramento definitivo è quello lì. Io ti ringrazio, ti chiedo scusa perché ti ho dato del sassuolese quando si dice sassolese, mi fa notare un ascoltatore via WhatsApp. Sassol, sì, la U si perde, ma va benissimo, Ciao Marcone, grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere. Ciao. Pier, saluto anche te, vado al Bartur, che dici? Ti ascolto, vado a preparare, faccio consigli televisivi, vado a preparare Germania-Svizzera stasera, canale 20, ovviamente in chiaro, per tutti quelli che hanno piacere. Germania che vuole la qualificazione contro la Spagna, -2 dopo 3 giornate, ma insomma, soprattutto nello scontro diretto dell'andata ha dimostrato di potersela giocare, quindi grande curiosità. Sì, e molti saluti. Ciao Pierluigi, ciao, ti voglio bene. Borsa, torniamo. Ciao, ve lo do io un bel passatempo, la zappa e il giardino. Se non ce l'avete, vi ospito io volentieri. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Perché qui i miei ragazzi devono stare attenti, dato che io ho i miei informatori. Ad esempio c'è un ascoltatore che mi raccomanda di stare attento, perché domenica sono stato tradito da Bartoletti. Leo Turrini, buongiorno. Buongiorno, io sono in coda sulla Piero Cormano, come sempre. Come mai? E voi certamente. Perché allora è passato di qui. Sapete la famosa vicenda della fotografia? Roberto Baggio su una Panda 4x4, no? E lui era davanti e, devo dirlo con incredulità, doloroso, ma è vero, né Vettel né Leclerc con la Ferrari riescono a superare questa Panda 4x4. Quindi si è formata una coda chilometrica, proprio nel periodo in cui Lewis Hamilton ha eguagliato il record di Schumi. Una tristezza infinita. Poi ne parliamo. Amici, senti, amici, ma di tutti convocati. Sai cosa ha fatto Marino ieri sera? Sì, lo so benissimo. È uscito con la sorella di Almeida, la maglia rosa. Sai dove l'ha portata? Nel Giro d'Italia. Sai dove l'ha portata? Sì, so anche quello. L'ha portata in un sushi. No. Sono andati insieme. No. E c'era Bartoletti che diceva: quando io condussi la Domenica Sportiva nell'85. Lo dissi che il sushi era il futuro dei ristobari in Italia. Non mi presero sul serio. Sei mal informato, allora, è andato al cinema. È andato al cinema. Caro, ma neanche Gesù ha detto di San Pietro quello che hai detto tu all'inizio, perdonami. Oh, ecco. Ho le prove, Attento, Mister Gento, domenica siete stati traditi da Bartoletti. Ma perché? Non è possibile. Fammi dire che le code sono configurate come assembramenti in questo momento. Io ho appena scritto un post in cui dico che, a fronte di quello che ha detto il DPCM, che non si può essere più di 6 in casa, ma con Biancaneve e 7 nani come facciamo? Guai a chi mi tocca Bronto, eh. Senti una cosa, so che sei andato al cinema ieri sera. Sono andato al cinema, sì. Ne ho riportato una sensazione strana, ma ho fatto bene ad andarci. Allora, hai visto il libro dedicato a Marco Pantani, il caso Pantani, l'omicidio di un campione, e io ho invitato un amico, una delle voci più belle d'Italia, che è l'avvocato e il narratore grosso modo di questo film, Francesco Pannofino. Buongiorno. Buongiorno, ciao Manino, ciao a tutti voi della radio. Ciao. Standing ovation per l'MVP di quel film. Posso anche dire ci voleva poco, ma questo non toglie nulla alla bravura straordinaria di Francesco, è un fuoriclasse. Grazie Marino, grazie. Devo dire che Marino mi ha regalato una volta una maglia rosa speciale del Giro d'Italia e ancora ne conservo la foto e il ricordo e la maglia. In un pioppetto vicino a un fiume mantovano, se non ricordo. Ti ricordi? Senti, Marino, che dici di questo film e cosa vuoi sapere da Francesco su questo film? Dico che l'ho guardato ovviamente con grande rispetto e con grande amore, come sempre uso fare quando si tratta di Marco Pantani, di cui nessuno potrà mai mettere a dubbio l'affetto che ho portato verso di lui. È un film molto duro, che sposa completamente una sola ipotesi. E io sono uscito come tanti, ovviamente con un po' di amarezza. Devo dire anche per come sono stati trattati certi personaggi, che forse meritavano un pochino più di rispetto in questo caso. Io so che questa è una versione che sposa la famiglia di Marco, che sposa Tonino, che sposa il suo avvocato, meravigliosamente interpretato, più che dal vero mi verrebbe da dire, ma questa è una battuta, da Francesco Pannofino. Però alla fine ho concluso che fra il cercare a tutti i costi un assassino, perché poi chi siamo noi che possiamo permetterci di, anche se questo può acquietare il dolore di una madre, di un padre, di una famiglia, lasciare in pace questo ragazzo per un po' di tempo, io so già per che cosa propendo. Cosa posso chiedere a Francesco, che è stato bravissimo e si è immedesimato perfettamente nella parte, se lui si sente vicino a questa interpretazione dei fatti che viene data? Guarda, io credo che Marco Pantani abbia diritto ad avere indietro l'onore e la dignità del grande campione che è stato, perché tu sai meglio di me che dopo Madonna di Campiglio quell'onore e quella dignità lui pensava di averla persa. Quando è stato estromesso ingiustamente dal Giro d'Italia, dove era primo e stava per vincere, era primo in classifica generale, e poi gli è stata tolta questa possibilità per una faccenda molto, molto poco chiara. Comunque che le analisi siano state manipolate è abbastanza stato dimostrato, e poi dopo c'è stata la deriva umana dell'atleta, dell'uomo e del ragazzo e di tutto, della sua vita. Però Francesco, permettimi che a Marco vadano restituiti onore e giustizia, è il minimo che ci possiamo augurare. Certo, racconta molto bene quello che è accaduto in quella notte terribile che portò all'alba di Madonna di Campiglio, e c'è veramente qualcosa di torbido ormai provato in quello che è. Esatto, infatti. Poi purtroppo nessuno di noi, di chi gli stava vicino, riuscì a dare a Marco la forza per rialzarsi, perché la sua sensibilità e la sua fragilità sono sempre stati purtroppo i suoi limiti, che erano simmetrici alla sua forza meravigliosa. Però di lui poi il discorso in avanti fino a delle conclusioni su cui nessuno di noi ha elementi specifici per giudicare, lasciami essere un pochino perplesso, ecco, solo questo. No, però secondo me il film aiuta a chiarire che le cose non sono andate così come racconta la versione ufficiale. Cioè, hai capito, ci sono dei dubbi perché la scena del crimine sia stata manipolata e manomessa è abbastanza chiaro, perché è tra l'altro in modo maldestro. Ci sono delle cose, dei testimoni che non sono stati ascoltati. Lo stesso Residence Le Rose è stato distrutto e ricostruito. C'è qualcosa che non quadra in questa vicenda, capito? E comunque Marco aveva chiesto aiuto quel giorno, quella sera. Aveva chiesto aiuto e l'aiuto non gli è stato mandato. È stato mandato una cameriera che ha bussato e non ha sentito niente, è tornato indietro. Vabbè, insomma, queste sono cose che dovrebbe eventualmente chiarire la magistratura. Ci vuole qualcuno che riapra le indagini, il caso. Io mi sono limitato a interpretare un personaggio ispirato all'avvocato De Rensis, che è l'avvocato della famiglia Pantani. Certo. Il film naturalmente apre così, ci sono dei dubbi e delle perplessità in quello che è la versione ufficiale. e quindi questo è già qualcosa. In più servirebbe anche a restituire, come dicevamo prima con Marino, la dignità e l'onore la giustizia a un grande campione. Siamo assolutamente d'accordo, Francesco, assolutamente d'accordo. Leo, qual è il tuo pensiero? Io non ho visto il film. Io naturalmente sono un ammiratore grandissimo di Pandolfino come attore, come voce. Sai, mi veniva da pensare, ascoltandolo, che so che Pandolfino, quando era ragazzo, per uno scherzo del destino, si è trovato a essere uno dei primi testimoni della strage di Via Fani, che è uno dei più grandi buchi neri nella storia del nostro paese, della nostra Italia. Certamente la tragedia di Marco Pantani non può essere accostata all'enormità di quella vicenda, ma rimane vero, senza aver visto il film, che troppo spesso nella nostra Italia ci sono storie che non riusciamo a comprendere fino in fondo. Ecco, se il film dà un contributo in questo senso a una ricerca di verità, allora mi piacerà, fermo restando che sono sicuro che Francesco come attore gli piacerà tantissimo, come sempre. Sì, c'entra poco con la sostanza. Io vi ringrazio delle belle parole, poi quello è il mio mestiere, interpreto dei personaggi, quindi, però ho sposato abbastanza volentieri anche la causa del film, cioè documentandomi eccetera. Non dimentichiamo che il regista Domenico Ciolfi è uno che ha passato anni e anni a studiare gli atti e tutte le vicende giudiziarie del caso, quindi ne sa sicuramente meglio di me, la sa più lunga di me. Io mi sono limitato a interpretare l'avvocato De Lenzis, che tra l'altro era presente sul set, quindi è stata una strana sensazione vedere, mentre giravo, la persona che stavo rappresentando interpretando in diretta sul set. Però speriamo, dai, che serva a chiarire bene le cose. Comunque 13 ancora oggi, 13 e domani 14 ottobre in 300 sale in Italia. Grazie Francesco. Lo so che c'è il traffico, però vorrei aggiungere che non c'è niente di non veritiero nel film, perché effettivamente ci si rifà soltanto agli atti. Lasciami anche aggiungere che Francesco è stato il miglior Nereo Rocco della storia del cinema italiano. E poi, porca miseria, la prima volta che al bar Arturo aspettiamo George Clooney, ci dici what else, per favore? Però purtroppo lo dice lui in originale, non sono io, non è la mia voce, purtroppo per me. Comunque, what else? Vabbè. Ciao, grazie Francesco. Ciao, grazie a voi. Grazie. Ciao Marino, un abbraccione. Ciao. Allora, traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, prima di parlare del tornare sull'argomento cannibale Hamilton, ma anche la domenica dei mostri, perché ne abbiamo parlato ieri, Hamilton, ma anche Nadal, ma anche LeBron James, io volevo rendervi ragione del brano iniziale che il solito occulto direttore artistico ha scelto. Ma che freddo fa, ma che freddo fa scendere alla fine di ottobre, più che salire, scendere dallo Stelvio, dall'Isoar, dal Colle dell'Agnello. Ieri l'ho detto, ma come si può pensare di chiudere su quelle montagne il Giro d'Italia alla fine di ottobre? Io temo non sarà possibile. Un ascoltatore mi ha rimproverato dicendo: ma lo sai che non si scende più con la maglietta, si scende col Kiwi, l'hanno inventato da tempo. Va bene, scendete voi a quelle montagne con il Kiwi. Ragazzi, ce la facciamo a finire il Giro d'Italia su quelle montagne? A me è venuto in mente il Giro dell'88, cui voi c'eravate, no? Attenzione che io il Giro dell'88 ho fatto tutte le tappe, ricordo benissimo la drammatica vicenda del Gavia, quando ne accaddero di cotte e di crude proprio per colpa di una violentissima bufera, ed eravamo all'inizio dell'estate allora, d'altronde questo è un anno, non ci vogliamo ripetere, molto molto complicato, il Giro d'Italia ha un suo percorso, può darsi che il meteo costringerà a modificarlo drasticamente, ma credo, Carlo, che nell'immediato il problema sia un altro. Sappiamo che stamattina due squadre sono state costrette a ritirarsi dalla corsa per il virus. Insomma, viviamo un presente che ci obbliga a fare i conti con prospettive che ancora 9 mesi fa sarebbero state inimmaginabili. Marino? Eroica la volontà del Giro d'Italia intanto di essere corso e poi di portarlo avanti malgrado tutto e malgrado tutti. Le regole al Giro d'Italia si rispettano, si stanno stringendo i denti per procedere per quanto riguarda le applicazioni dei protocolli, sai, evidentemente parola più conosciuta nel mondo del ciclismo che non nel mondo del calcio. È chiaro che ci andrà incontro a qualche problema. Io fra l'altro domani lo andrò a trovare finalmente il Giro d'Italia, perché dopo 30 anni per la prima volta non ero alla partenza, lo seguirò per qualche tappa e trovo molto dignitoso, molto decoroso, molto coraggioso che si porti avanti questo progetto. D'altra parte non è la prima volta che grazie al Giro d'Italia l'Italia stessa si rialza, guarda avanti misurandosi e confrontandosi e specchiandosi col sacrificio di questi ragazzi. È chiaro che sarà un giro, nel calcio si usa l'aggettivo falsato che è un pochino forte, però certamente condizionato. È chiaro che ci vorranno, come nel calcio, quando vorranno i piani A, B e C, però per quanto mi riguarda ammirazione infinita per gli organizzatori e per i corridori, però io non me ne vado se tu non mi dici perché ti avrei tradito domenica scorsa. Cosa facevi domenica mattina alle 10? Però diciamo, scusa Carlo, vai, fammi dire una cosa, sì, perché questo va segnalato. Io mi meraviglio che il Giro d'Italia sia partito dopo 30 anni ignorando l'assenza di Marino Bartoletti alla partita. Lì gli organizzatori... Ma infatti va che casino sta venendo fuori. Ma avrebbero dovuto dire, un momento, o arriva Bartoletti o il Giro d'Italia... O di cui non si muove nessuno. Anche perché poi per lo shock che Marino ha subito... è passato a lavorare per un'altra radio. Bravo Leo, il Bar Tour, bravo. Una cosa gravissima, ma una roba, voglio dire, come se Lukaku sabato indossasse la maglia del Milan. Allora facciamo qualcosa per impedire che queste dolorose vicende si ripetano. Guarda, grazie. Raramente ti ho voluto bene come in questo momento, te ne voglio tanto di bene, avanti, insisto. No, ma qui qualcuno si deve dire qualcosa, deve uscire. Guarda, allo scoperto. Io sono fedele, come sai, a Radio 24, come lo era il grande Enzo Ferrari, raccontato nei suoi libri da Leo Turrini. Mea culpa, è stata la follia di un mattino. D'altra parte non avevo dormito quella notte, perché fra le bronzenze e tutte le altre cose, sai, mi ero distratto un pochino. Cioè, ci stai dicendo che è stata una botte via? Ma sì, forse ce ne sarà anche un'altra per la verità, ma la fedeltà domestica è assolutamente fuori. Guarda, nei 6 invitati ci sareste sempre, ovviamente tu, ovviamente Pardo, ovviamente Capuano, ovviamente Turrini, ci mettiamo anche la Schiattone, così siamo a posto. Ci mettiamo anche la Schiattone, lo perdoniamo, Leo? Ma cosa vuoi? È chiaro che lui adesso sta vivendo questa dangerous liaison, come si dice, con la sorella della maglia rosa, Almeida. E quindi Marino è un po' confuso perché non parla il portoghese. Devo dire che Marino è ferratissimo sul tedesco, conosce molto bene lo spagnolo, parla discretamente anche l'inglese. Una volta l'ho sentito esprimersi in russo con una prontezza ammirevole. Col portoghese, secondo me, non si capisce tanto con questa sorella di Almeida, hai capito? Amore, queste cose, carota, e qui là, hai capito? Poi mette su un disco di Tocchino, e via che andiamo, il vecchio Marino, e ci tradisce con emittenti radiofoniche che... Per carità. E pensate che proprio questo Bar Tour aprirà una serie di podcast con una pagina dedicata sul sito di Radio 24. Scelti per voi, troverete il Bar Tour fresco ogni volta che andrà. Ma come no? Proprio in questa puntata del tradimento confesso di Marino Bartoletti. Questo. Vabbè, ragazzi, è stato bello. Bello come sempre, nonostante un po' di amarezza, è stato bellissimo. Grazie, ciao Marino, ciao Leo, ciao. Grazie Claudio Schiattone, naturalmente, a Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati domani alle 2, ragazzi.